Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buon pomeriggio a tutti, buona domenica da Gegè Telesforo. Questo è l'appuntamento numero 175 del nostro Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Grazie a tutti gli amici che continuano a inviare le loro mail al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. E vorrei ringraziare anche la nostra amica Rosangela, che ha inviato una bellissima mail chiedendoci di riproporre il talento vocale, il talento musicale infinito di questo ragazzo inglese oggi ventenne che si chiama Jacob Collier. Abbiamo già parlato nella passata stagione di Jacob Collier, ma torniamo ancora una volta a apprezzarne l'infinito talento, perché Jacob Collier è oggi un vero fenomeno. Sì, non ha ancora pubblicato il suo primo album, però c'è la possibilità attraverso iTunes di poter scaricare questo arrangiamento pazzesco che ha realizzato su una composizione di George Gershwin intitolata Fascinating Rhythm. Ecco, Jacob Collier è l'esempio della musicalità onnivora di un giovane talento contemporaneo. Si è formato in una casa di eccellenti musicisti, la mamma è un'apprezzata violinista direttrice di orchestra che, quando Jacob Collier aveva soltanto 4 anni, lo portava con sé alle prove con l'orchestra sinfonica e poi lo ha svezzato in questa stanza piena di strumenti all'ascolto del jazz e della black music. Ecco, così si è formato questo talento, che ha iniziato a prendere lezioni di canto a 8 anni, a 14 anni si è avvicinato allo studio del contrabbasso e oggi studia pianoforte alla Royal College of Music Junior Department lì a Londra, dove è apprezzato anche come compositore e soprattutto come arrangiatore. E così questo ragazzo ha un talento particolare nell'arrangiamento e potrete verificare di persona le sue peripezie musicali visitando il suo canale su YouTube. E infatti questo ragazzo non è soltanto un bravissimo musicista, ma a mio parere è anche un bravissimo filmmaker, perché riesce con una piccola telecamerina a filmare tutte le parti vocali e anche tutte le parti strumentali che lui realizza per i suoi arrangiamenti e a proporle così in video. Ecco, utilizza il computer da quando aveva 12 anni con un piccolo un software musicale che si chiama Cubase, e oggi Jacob Collier annovera fra i suoi fan musicisti di fama mondiale, a partire da Quincy Jones, Herbie Hancock, Pat Metheny, Chick Corea, Steve Vai, addirittura i Take Six, che lo considerano un vero e proprio fenomeno. Allora torniamo al soundcheck di Radio 24 ad apprezzare il talento di Jacob Collier con un suo arrangiamento originale realizzato un paio di anni fa per questa versione di Don't You Worry About the Thing di Stevie Wonder. Torna il talento infinito di Jacob Collier al soundcheck di Radio 24. Wanna see all the changes you take yourself through. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, baby. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. Da da da da. You get Scioccante il talento di Jacob Collier in Don't You Worry About The Thing di Stevie Wonder qui al soundcheck di Radio 24. Lo dicevamo, Jacob Collier è molto apprezzato, lo tengono d'occhio tutti, si sta aspettando la pubblicazione del suo primo album e in molti si chiedono: ma come farà questo ragazzo che suona tutti gli strumenti e canta tutte le parti vocali con questi arrangiamenti pazzeschi poi a proporre un concerto dal vivo? Ebbene, il ragazzo si sta organizzando, non si sa come, non si sa se si presenterà sul palco con una band strepitosa di coetanei oppure se farà tutto da solo. Fatto sta che anche noi aspettiamo di verificare di persona dal vivo le capacità musicali, strumentali e vocali di Jacob Collier. Lo dicevamo, anche i Take Six sono fra i suoi fans e i Take Six però sono in sei e quando salgono sul palco stupiscono ormai dal 1987. Nell'86 hanno pubblicato il loro primo album celebrando la loro passione per la musica gospel, cantano di tutto, adesso sono delle star, hanno cantato soul, rhythm, blues e anche alcuni standards di jazz e hanno collaborato con i grandi nomi della musica internazionale, anche loro partendo da Quincy Jones, hanno collaborato con Ray Charles, con Queen Latifah, con Brian McKnight, Al Jarreau e naturalmente con Marcus Miller, che ha prodotto per loro un album splendido nel 2002 intitolato Beautiful World. E allora ascoltiamo il talento dei Take Six in questo arrangiamento, tornando ad ascoltare Stevie Wonder, in questo arrangiamento dei Take Six per la produzione di Marcus Miller di Love's in Need of Love Today qui al Soundcheck di Radio 24. Take Six. Good morning, evening friend. Hello. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. Yeah. What I'm about to say, say hey, could mean the world's disaster. Soundcheck. Il suono della musica. Just one thing I know. That's gift to the giver. Just one thing I know. Just let it flow like a river. Just one thing I know. Make your life even better. One thing that I know. La voce del veterano Al Jarreau in Random Act of Love dall'album All I Got del 2002. Il veterano Al Jarreau, nato a Milwaukee ormai 74 anni fa, ma musicista dotato di grande carisma sul palco che continua a esibirsi con grandissimo successo. Nato a Milwaukee, si forma nella chiesa avventista del settimo giorno dove suo papà era un pastore e ha iniziato proprio le sue prime esperienze canore cantando nel coro della chiesa dove il papà professava, celebrava la sua messa. Al Jarreau è anche l'unico cantante che è riuscito a vincere 3 Grammy Award in 3 diverse categorie, proprio dal jazz al pop al rhythm blues, proprio a dimostrare la sua onnivora passione per la musica. Nel 1962 questo ragazzo di Milwaukee si laurea in psicologia e poi si trasferisce a San Francisco, dove inizia a lavorare come assistente sociale, ottenendo anche un master in riabilitazione vocale, ma la sua passione è sempre stata la musica e quindi inizia a esibirsi nei piccoli club della zona, esattamente a Sausalito, dove incontra un altro eccellente musicista, un giovane pianista chiamato George Duke. Ed è proprio a George Duke che Al Jarreau ha dedicato l'ultima pubblicazione, coinvolgendo altre star della musica che hanno collaborato con George Duke. E allora torna qui al Soundcheck Al Jarreau con la partecipazione di un veterano di New Orleans come Dr. John in questo brano scritto da George Duke molti anni fa. Questa è la versione contemporanea di Al Jarreau di You Touch My Brain al Soundcheck di Radio 24. You touch my brain, my heart and mind, my soul, it's all the same. Yes, T.I. Yes, touch my brain. When I feel you near, I just might go insane. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. I can't tell you who to stop you. Show me what you wanna do. I can't tell you who to stop you. Let me hear you say you stop playing. e dopo l'informazione di Radio 24 torna il soundcheck, la nostra prova del suono con It's Your Thing, uno dei maggiori successi degli Allay Brothers, recuperati però dai due producer discografici Frank e Christian Berman, ovvero Studio Rio, che hanno realizzato più o meno un anno fa in studio di registrazione un album che ha ottenuto grandi consensi durante l'estate, proprio in occasione dei mondiali di calcio, proprio perché hanno isolato le tracce vocali di alcuni grandi successi di artisti come Bill Withers, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Billie Holiday oppure Sly and the Family Stone, per realizzare così degli arrangiamenti contemporanei in chiave brasiliana, coinvolgendo in studio di registrazione alcuni fra i più quotati musicisti brasiliani di oggi. Ebbene sì, anche gli Allay Brothers sono stati celebrati con questa traccia intitolata It's Your Thing, uno dei grandi successi di questa formazione che ha imperversato negli anni 60, una band messa su nei primi anni 50 proprio dal signor Halley Senior, che ha coinvolto tutta la famiglia, tutti i figli maschi, per creare una formazione gospel, per poi fare finalmente dei concerti nella metà degli anni 50. Poi hanno avuto un lutto in famiglia perché uno dei fratelli resta coinvolto in un incidente stradale, era sulla bicicletta, viene investito, quindi perde la vita, la band si ferma per qualche anno per poi ricominciare a produrre musica, fino a quando mettono su la loro casa discografica, la Teaneck Records, e così iniziano a ottenere i primi successi. E pensate che in studio di registrazione, proprio durante la registrazione dei primi singoli, gli Allay Brothers, coinvolgendo vari musicisti, si ritrovano un giovane talento alla chitarra, un signore chiamato Jimi Hendrix, che poi lascia gli Allay Brothers per unirsi alla super band di un campione di rock and roll come Little Richard. Ebbene, oggi gli Allay Brothers non producono più musica, ne sono rimasti soltanto due di fratelli, e soltanto Ronald Allay continua a fare musica anche con buoni risultati. Infatti ultimamente ha prodotto un album intitolato This Song Is For You, e qui lo ascoltiamo al soundcheck di Radio 24 con una composizione originale intitolata My Favorite Thing, con la partecipazione del giovane vocalist Cam. Ronald Allay al soundcheck di Radio 24 con My Favorite Thing. My baby won't talk to me, she giving me the third degree, the peace is sure enough disturbed, I know I'm just getting on her nerve, she's the only one I need, we were truly meant to be, can't nobody keep it real like my girl, nobody in the whole wide world come home to me. It's hard to see. No, no, no, no. Yeah, no, no. Your love will always be my favorite thing. Soundcheck, il suono della musica. Il suono del falsetto inimitabile del maestro Curtis Mayfield in Back to Living Again, una delle ultime composizioni scritte da Curtis Mayfield, brano tratto dall'ultima pubblicazione del 1996 intitolata New World Order. Curtis Mayfield morì poi qualche anno più tardi, esattamente nel 1999, dopo un periodo terribile, sì, perché nel 1990, durante un concerto a Brooklyn, una parte dell'impianto di illuminazione del palco cadde addosso al maestro Mayfield, fratturandogli la colonna vertebrale e paralizzandolo dal collo in giù. E nonostante questa tragedia, Mayfield continuò con grande sofferenza, pur non potendo più suonare la chitarra, a scrivere musica e a scrivere testi importantissimi. Tant'è vero che la musica di Curtis Mayfield diventò importante per l'ambiente nero americano proprio negli anni 60 e 70, in un momento in cui cui i fratelli e le sorelle nere avevano bisogno di un supporto sociale in un momento di grandissimo fermento per le tragedie che avvenivano legate al razzismo tipico dei bianchi. Ecco, Curtis Mayfield è stato uno dei personaggi chiave della black music, periodo di grande successo quando scrisse la colonna sonora del film Superfly, e la musica di Curtis Mayfield, il sound della musica di Curtis Mayfield è sempre stato caratterizzato dal suo falsetto, un espediente vocale che ancora oggi viene utilizzato dai grandi cantanti di soul e di rhythm blues, fra questi per esempio Prince, ma c'è un altro campione come Philip Bailey, vocalist degli Earth, Wind & Fire, che ha fatto il sound degli Earth, Wind & Fire con il suo falsetto legato a quello della voce piena del leader Maurice White. Philip Bailey ha registrato soltanto 3 album a suo nome, ce n'è uno molto bello intitolato Soul on Jazz del 2002, dal quale vi faccio ascoltare una composizione originale intitolata Bop Skip Doodle, dandovi appuntamento poi alla seconda parte del soundcheck di oggi, quindi a partire dalle 19:15, seconda parte della domenica come sempre dedicata al jazz. E questa sera avremo un ospite eccellente, il mio amico Ben Sidran, collegato con noi via Skype da Chicago, anzi da Madison, Wisconsin, per presentarci l'ultima produzione discografica, e quindi sarà anche un'anteprima per il nostro soundcheck, perché l'album verrà pubblicato soltanto fra un mese. Quindi appuntamento alle 19:15, seconda parte del soundcheck, e vi lascio con la voce di Philip Bailey in Bop Skip Doodle. A più tardi. Soundcheck, il suono della musica di DJ Telesforo. Seconda parte del soundcheck di Radio 24 di questa domenica. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera a un mio carissimo amico, musicista eccezionale, pianista, cantante from Chicago, ma ormai da anni vive a Madison, la sua base operativa, dove ha realizzato tanti dischi, dove produce la sua musica e dove vive con la sua famiglia. Ladies and gentlemen, vado a introdurvi con grande piacere, collegato con noi da Madison via Skype, il mio amico Ben Sidran. How are you doing, Ben? Hello JJ, what a pleasure to be with you, man. Ah, ok Ben, senti, io sono felicissimo di avere Ben in collegamento con noi, perché abbiamo un'esclusiva. Un'esclusiva perché da pochissimo è stato pubblicato un album nuovissimo per Ben Sidran che si intitola Blue Camus. Allora, Blue Camus, che cosa significa? So, tell me about this new record, Ben. Well, the first thing you should know is the world premiere is right here on your show today, because the record is for sale maybe in 1 month, but for you, immediately. Ah, grazie. Thank you very much. Quindi per noi è veramente un piacere ospitare Ben per presentare in anteprima questo album che sarà pronto in distribuzione fra un mese. And I know that the recording, so the soundtrack has been in so stored for 1 year. Yes, yes, at least. Because we started this as is like a small grooves with the 4 people, and then we wherever we were in the world, I would write lyrics and we'd put it together and we'd go into a studio, man. So this record was made on the road. This record was made all over the road. Sì, questo disco è stato fatto praticamente in giro. Hanno iniziato la produzione più o meno un anno fa, registrando proprio nello studio casalingo di Ben lì a Madison, con 4 meravigliosi musicisti, ma anche 4 meravigliosi amici. So, 4 fantastic players, but also 4 incredible friends. Tell me about the players. Yeah. Raccontami dei musicisti.